Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Città intelligente, pare un ossimoro, ma in realtà non lo so, però forse non lo è. Lo vedremo, lo capiremo nel corso della puntata. Sono Luca Tremolada, in mia compagnia Guido Romeo, giornalista scientifico, blogger, l'abbiamo presentato, lo conoscete tutti, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, perché città intelligenti? Perché, insomma, negli ultimi 30 anni le tecnologie che sono affacciate con forza, con violenza, come internet, il wifi, i sensori, il cellulare, soprattutto il telefonino, consentono di tracciare, la parola è brutta ma è giusta, di tracciare i movimenti delle persone. Le informazioni che arrivano da questi movimenti possono dare delle indicazioni alla politica, agli amministratori, vero? Sì, ma possono anche aiutarci a vincere una delle grandi sfide. Insomma, più della metà della popolazione mondiale da un paio d'anni vive nelle città, quindi abbiamo città sempre più affollate, sempre più congestionate. Credo che tutti i nostri ascoltatori la vivano sulla propria pelle. Quindi... Non tutti, perché magari qualcuno vive splendidamente in campagna. E beato lui. Però diciamo che è un tema quello delle città. Noi abbiamo in collegamento da Boston Carlo Ratti, direttore del Sensible City Lab al MIT di Boston. Perché Carlo Ratti? Perché Carlo Ratti studia dei progetti per, diciamo, rendere le città intelligenti. Sentiamo la scheda che ha redatto Guido Romeo. È ingegnere e architetto, ma la sua passione sembrano essere soprattutto le nuove tecnologie digitali. A 38 anni, Carlo Ratti è direttore del Sensible City Lab dell'MIT di Boston, dove studia le conseguenze e le possibilità urbanistiche della diffusione in città di sensori, computer e telefonini connessi alla rete. La sua ambizione è comprendere come questo nuovo insieme di informazioni sugli spostamenti e i comportamenti di chi abita o attraversa un luogo può diventare l'occasione per riprogettare la città e migliorarne la vita quotidiana. Nel curriculum di questo torinese giramondo, formatosi tra Europa e Stati Uniti, convivono progetti anche molto diversi. Sabato scorso a Londra, New York e Seattle, il Sensible City Lab ha lanciato Trash Track, un progetto che mira a mappare il percorso di 3.000 oggetti gettati nella spazzatura da comuni cittadini e accoppiati con le antenne mobili messe a punto dai ricercatori. Lo scopo è seguire il percorso fino a discariche e inceneritori, per scoprire inefficienze e magari un giorno riprogettare lo smaltimento dei nostri rifiuti in maniera più pulita e conveniente. Buongiorno, professor Ratti. Buongiorno. Partiamo fa brutto dirlo, ma partiamo dalla spazzatura, trash track. Ci può spiegare meglio dove ci porta seguire la spazzatura? Ma guardi, l'idea del progetto è questa, è un po' come quando uno va in ospedale e gli viene messo un tracciante nel sangue e poi seguendo questo tracciante riusciamo a capire meglio come funziona il corpo, se ci sono dei problemi, quali sono... È un po' quella che si chiama nuclear medicine, in inglese, medicina nucleare credo in italiano. È un po' fare la stessa cosa a livello della città, quindi come possiamo inserire nella città una serie di sensori sui rifiuti e poi seguirli, quindi capire cosa va al posto giusto, cosa va al posto sbagliato, come potrebbe essere reso il sistema più efficiente. Ci sono grandi problemi oggi, un problema ad esempio con si chiama e-waste, elettronici. Molti vengono rivenduti ai paesi in via di sviluppo e poi non vengono trattati come dovrebbero essere trattati, quindi con problemi di inquinamento in Africa e in altri paesi dell'Asia. E quindi se riusciamo a seguire, a capire meglio questi flussi, possiamo risolvere alcuni dei problemi del sistema di oggi. Ecco, 824 0024 per parlare con Ratti, 349 238 6666, anche per suggerirci cosa farne di tutti questi dati, perché è evidente che il numero di sensori che si possono attivare nelle città consentono di ottenere molte informazioni su quello che è il comportamento della popolazione. Questi dati poi devono essere processati, o da questi dati possono essere ricavate delle indicazioni, e queste indicazioni possono poi in un certo senso influire, condizionare o suggerire delle scelte in campo politico. È questo il cappello dei progetti che andremo via via raccontando durante questa puntata? Io vorrei però aggiungere, non direi tanto per capire la popolazione è qualcosa di molto diverso. Io direi proprio di usare le tecnologie per capire come possiamo capire meglio la città, e lo spazio, i flussi, è qualcosa di diverso e che ci può permettere di, appunto, di ottimizzare un sistema, che sia il sistema di smaltimento di rifiuti, che sia il sistema del traffico. Dimmi Guido. Ma io avevo una domanda anche un po' tecnica, tecnologica, per Carlo Ratti, perché noi abbiamo detto tranquillamente, inseguiamo la spazzatura, andiamo a vedere dove finisce, ma com'è che si fa? Perché vediamo poi dei macchinari che la trasportano, la trinciano, la lavorano, non è forse così semplice, non basta gettare un telefonino acceso in un bidone dell'immondizia e poi seguire il suo segnale. Che cos'è che fate esattamente? So che è una cosa abbastanza complessa. Allora, intanto la cosa importante è capire lo scopo, l'obiettivo, no? Per cui non è un telefonino attaccato alla cosa, qualcosa di un po' diverso. Diciamo, pensate a un futuro, succederà fra 5 anni o 10 anni, in cui grazie a etichette, sono etichette di altro tipo, sono etichette RFID, qualsiasi rifiuto avrà inserite al suo interno le istruzioni su come essere smaltito. Quindi in cui teoricamente potremmo raggiungere una condizione di recycling, di riciclo al 100% grazie alle istruzioni che possiamo inserire sui vari oggetti. Allora, questo succederà fra 5 anni, 10 anni, succederà in futuro. Cosa possiamo fare adesso? Quello che possiamo fare è fare una specie di prova, una simulazione su base più piccola e cercare di capire come funziona il sistema. Allora, quello che abbiamo fatto è creare delle etichette. Non possiamo utilizzare delle etichette RFID, che sono queste etichette passive che già si iniziano, per il motivo per cui non possiamo utilizzarle è che avremo bisogno di moltissimi lettori per tracciare. Allora abbiamo sviluppato un'etichetta nostra attiva, che sì, se uno vuole semplificare può dire come se fosse un telefonino miniaturizzato, però in un modo un po' grossolano, e effettivamente gira sulla rete cellulare, per una piccola etichetta che permette di posizionare il rifiuto e poi di trasmettere questa informazione a un server centrale. E quindi queste etichette sono state, le abbiamo progettate noi, sono state poi prodotte, abbiamo lavorato insieme a Qualcomm, che tali chip. Ecco, ma queste etichette non costano tanto, immagino, se vanno utilizzate per la spazzatura. Beh, adesso, diciamo, queste non sono da mettere su ogni rifugio, sono, noi ne mettiamo 3.000 nel sistema, quindi a New York, a Seattle, a Londra, e quindi seguiamo queste 3.000. Se uno ne producesse molto di più, i costi chiaramente scenderebbero molto. Parliamo di qualcosa che però è molto più costoso di quello che sarà in futuro. RFID. L'etichetta RFID si parla di cent, di centesimi di dollaro, sì, di euro. Per queste si parla di dollari, di decine di dollari. Ecco, quello della spazzatura non è l'unico progetto. Oggi ne avete, il Sensible Lab ne ha moltissimi. Noi sul Twitter di Nova Lab 24 abbiamo pubblicato l'indirizzo del vostro sito, per cui navigando nel vostro sito ci si rende conto anche della potenza di fuoco e della diversità tra di loro dei vari progetti. Noi ne abbiamo raccontati alcuni in una scheda, sentiamo. Dalle case anti-tsunami progettate per lo Sri Lanka a Real Time Rome, una mappatura degli spostamenti delle persone mediante i segnali dei telefoni cellulari realizzata durante la notte bianca del 2007 a Roma. Nel 2008, in occasione dell'Expo di Saragozza, Carlo Ratti ha lavorato con la città spagnola per sviluppare la Milla Digital, un nuovo distretto ad alta intensità tecnologica. A Milano, insieme a Walter Nicolino e a Patrick Blank, ha ideato la nuvola verde interattiva che spicca sopra al Caffè Trussardi in Piazzetta Ferrari. A Firenze, in collaborazione con la provincia e l'azienda dei trasporti pubblici ATAF, ha progettato iStop, una pensilina interattiva per le fermate d'autobus che comincerà le prime sperimentazioni tra poche settimane. Ogni installazione è disegnata ad hoc per integrarsi con il paesaggio urbano e produrrà l'energia che consuma grazie a pannelli solari. iStop permetterà di collegarsi ad internet e a social network come Facebook e Twitter, pianificare il viaggio nella maniera più rapida e interattiva, monitorare in tempo reale la propria esposizione all'inquinamento, oltre a utilizzare il proprio cellulare per postare commenti e annunci o comunicare con il sistema dei trasporti urbani. Il cellulare mi sembra che sia il centro di tutto, buona parte, cioè il centro fondante della ricerca, perché è un ricevitore, un trasmettitore, in un certo senso rileva il movimento delle persone. No, io non direi. No, in realtà quello che sta succedendo oggi è piuttosto interessante. Tutti sappiamo il fatto che ha avuto vent'anni. Stati, non so, 1993, quando esce il primo browser, prima di Internet, di cosa si chiamava Mosaic all'epoca. 10 anni fa sembrava, era il primo browser allora per andare su Internet. Negli ultimi 20 anni c'è stata una grande trasformazione legata alle reti. Oggi quello che sta succedendo è che queste reti stanno diventando, cioè venti dappertutto, stanno diventando miniaturizzate, stanno diventando reti anche di sensori, reti wireless, e quindi stanno diventando quello che si chiama spesso smart dust, cioè polvere intelligente. Però la cosa interessante è che quando nella condizione di polvere intelligente si crea una nuova interfaccia, che è l'interfaccia tra questa tecnologia ormai usata, le persone e lo spazio, e quindi è qualcosa che è al confine tra l'intelligenza artificiale, computer science e l'architettura, e che permette proprio di ripensare all'interfaccia spazio e tecnologia. Ecco, c'è la conversazione, probabilmente c'è un problema sulla linea e la conversazione va e viene. Dimmi, Guido. Ma ecco, è estremamente affascinante sentire parlare Carlo Ratti, e secondo me questa immagine della polvere intelligente stimola tante domande, perché poi ha applicazione, appunto abbiamo visto, nell'urbanistica, nella mobilità, nelle tante cose, ma c'è anche secondo me un lato scientifico. Io leggendo appunto le cose che ha fatto, avevo visto una sua conversazione con un matematico, Steven Strogatz, e veniva da chiedersi se cominciano a vedere anche da un punto di vista scientifico se ci sono delle leggi che governano il comportamento urbano, questo flusso delle persone, delle cose che attraversano le città, una cosa che prima esisteva e probabilmente c'era, ma che non vedevamo. Adesso improvvisamente forse diventa rilevabile. Ci state guardando? È una domanda molto bella. Se voi pensate, nessuno sa ancora oggi effettivamente perché viviamo nelle città. Città iniziano, nascono circa 7.000, 10.000 anni fa, e da quel momento c'è questa grande avventura urbana, che poi l'anno scorso ha portato a più del 50% della popolazione ormai che vive in aree urbane sul pianeta. Però i motivi fondamentali, o comunque le leggi che governano questo processo, qual è il vantaggio ad esempio di stare in una città grande o una città piccola? C'è questa bellissima legge di Zipf che è stata scoperta 100, che fa vedere che appunto le città vengono di tutte le taglie, non c'è una taglia ottimale per una città. Ecco, ci sono moltissime domande ancora aperte per quanto riguarda le città, domande che uno si pone proprio guardando a questo aspetto. E io credo che oggi, con alcuni delle informazioni che riusciamo a ottenere dalle reti, potremmo risolvere alcuni di questi annosi problemi. Ecco, una di queste è il turismo. Io, partecipando l'anno scorso alla festa della creatività di Firenze, un suo allievo, un ragazzo che lavora con lei, mi ha raccontato di questo progetto che sostanzialmente monitorava le fotografie che venivano inviate su Flickr, che è un grande sito di condivisione, nella città di Firenze. Che cosa significa questo? Significa che analizzando le fotografie che uno fa dei vari movimenti si riesce anche a capire da che angolazione vengono fatte e che tipi di percorsi determinate persone fanno nella città di Firenze. In questo modo che cosa hanno scoperto? Hanno scoperto per esempio che i giapponesi, mi raccontava, vedono solo alcune aree della città di Firenze e non vedono assolutamente alcuni musei, che i tedeschi compiono dei giri nella città particolare. Qual è l'impatto impatto di questi dati su un sindaco o su un amministratore pubblico? Proprio il fatto che può studiare delle campagne di turismo mirate in modo tale da diciamo colmare le lacune. Dico bene, Ratti? Come? Non so se aveva sentito, nel senso che stavo provando a spiegare... Ho sentito, scusateci, una linea forse che un po' va e viene qualche volta, ma questo rientra in una serie di progetti che si basano su quello che si chiama user generated content, cioè su informazioni che vengono generate, caricate su internet dagli utenti, in particolare in questo caso dalle foto, sono foto che migliaia, milioni di persone prendono e scattano in digitale tutti i giorni e caricano su Flickr e lasciano pubbliche, le lasciano aperte, visibili, accessibili a tutti. Allora, guardando questo, così uno riesce a capire meglio che cosa succede nella città, quindi un amministratore pubblico può effettivamente capire se deve fare una campagna, come farla meglio. Una delle cose interessanti che abbiamo scoperto è che non c'era nessuna foto presa da un americano sull'isola d'Elba, mentre ne sono tantissimi di italiani, sembra che nessuno in America quasi conosca l'isola d'Elba. Un esempio di quello che uno vede quando inizia a prendere questi database giganteschi, usarli per descrivere il territorio. Questo è una specie, è un po' come se fosse, abbiamo un progetto che è stato in mostra a Barcellona qualche mese fa, al Design Museum, ed è un po' l'ideale, ben chiamato Los Ojos del Mundo, fossero gli occhi del mondo, di usare queste immagini prese da centinaia di migliaia, milioni di persone, un po' per far vedere e descrivere il territorio, la città in un modo nuovo. Ecco, non solo l'amministratore pubblico, noi abbiamo in linea Beatrice Trussardi, presidente e amministratore delegato del gruppo Trussardi, che in un qualche modo, adesso ci spiegherà come, ha utilizzato questo approccio. Ma prima sentiamo chi è Beatrice Trussardi nella scheda. Storica e grande appassionata d'arte contemporanea, Beatrice Trussardi ha preso le redini dell'azienda di famiglia nel 2002. All'impegno imprenditoriale affianca quello nel mondo della cultura con la Fondazione Nicola Trussardi, di cui è presidente. Per il World Economic Forum è uno dei Young Global Leader selezionati in 69 paesi come giovani under 40, leader in campo politico, imprenditoriale, economico e culturale e chiamati a realizzare il progetto Iniziative 2020, destinato a elaborare le strategie globali per costruire un futuro migliore. Buongiorno Beatrice Trussardi. Buongiorno a tutti. Buongiorno, subito una domanda. La Nuvola Verde a Milano, il caffè Trussardi che avete realizzato con Carlo Ratti e Patrick Blank, ci spiega che cos'è? Sì, abbiamo voluto allargare lo spazio del caffè Trussardi esistente all'interno del palazzo in Piazza Scala. In questa area è urbanisticamente molto interessante ma cofruibile, che è piazzetta Filodrammatici, che appunto è adiacente, ma dietro Piazza Scala, che è adiacente al Teatro Filodrammatici, una piazzetta molto, molto bella, molto interessante, che veniva utilizzata precedentemente solo per il passaggio di auto, il parcheggio di auto. Quindi abbiamo voluto valorizzarla con questo progetto che è stato affidato a Carlo Ratti dal punto di vista architettonico, creando questa teca di vetro sovrastata del verde, che è stata chiamata da Carlo Ratti Nuvola Verde. In realtà si tratta di una serie di piante, circa 110 specie diverse di piante, sia che crescono sia all'interno della serra di vetro sia all'esterno, quindi sono tipologie diverse a seconda del clima che c'è sia all'interno che all'esterno, e rendono un'oasi assolutamente speciale e unica all'interno di una zona assolutamente centrale, una delle piazze più fruibili all'interno della città di Milano dopo Piazza Duomo, Piazza della Scala, e quindi abbiamo dato un servizio di pubblico di un caffè a Milano, però con un tocco di innovazione speciale che in questo caso è il verde. Ecco, Christian da Milano è in collegamento e credo che voglia fare una domanda al professor Ratti. Buongiorno. Buongiorno. Volevo, la mia domanda era inerente al traffico, cioè utilizzando delle tecnologie che sono già presenti, quindi quella satellitare di cui tutti più o meno in Italia siamo dotati, utilizzando la possibilità di monitorare dall'alto quello che è il flusso del traffico, un sistema di tracking tipo quello del trash tracking a cui accennavate prima, non potrebbe essere applicabile anche alle automobili? Perché il problema, penso, del traffico automobilistico sia molto più grave del problema del traffico pedonale, e permetterebbe di utilizzare una tecnologia già esistente senza avere alcuna necessità di creare tecnologie apposite, quindi a costo zero, visto che so che il traffico viene spesso paragonato al, per esempio, alla circolazione sanguigna, eccetera, per trovare delle equazioni che permettano di ottimizzarlo. Mi chiedevo se questo tipo di approccio del tracking potrebbe essere applicabile anche a questa fattispecie. Grazie Christian. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolada, Guido Romeo. Abbiamo in collegamento il professor Carlo Aratti e il presidente Beatrice Tussardi, ma prima c'è una domanda in sospeso per il professor Aratti. L'ha sentita o gliela riassumo? Sì, magari conviene riassumere un attimo per gli ascoltatori. Se. Sostanzialmente Christian si domandava se i sistemi satellitari sono pronti per ricevere informazioni e in un certo senso processarle e rimandare dei segnali. Per cui se potete utilizzare la tecnologia satellitare per mappare, per monitorare, per ottenere dei dati. Christian si riferiva in particolare alla questione del traffico, cioè di come migliorare la situazione del traffico, e effettivamente questo è qualcosa che sta già accadendo. Noi abbiamo fatto uno dei primi esperimenti 4 anni fa, però oggi ci sono, soprattutto Google sta investendo molto in questo campo, altre grandi imprese, e questa è la direzione in cui si sta andando, cioè di una capacità di raccogliere e descrivere in tempo reale i flussi della città. Ci sono ancora molti problemi aperti in sospeso, perché l'idea è quella di fare una specie di ciclo di feedback in tempo reale, una specie di sistema di controllo in tempo reale del traffico. Ecco, per far questo ci sono ancora diverse cose da risolvere. Un esempio molto semplice: se ad esempio abbiamo dei ritardi nel sistema di acquisizione dei dati, supponiamo di vedere a un certo momento che a Milano una strada è quella libera e possiamo in modo migliore passare per questo corso. Dopo 5 minuti, se questa informazione va nel sistema, tutti andrebbero in quella strada e quella strada sarebbe la più bloccata. Quindi sono dei problemi legati al creare dei sistemi di controllo in tempo reale che siano efficienti, robusti e che possano effettivamente funzionare bene. Ci sono problemi teorici di applicazione, però la direzione è quella, e pochi anni e credo che ci arriveremo. Professor Gatti, abbiamo Mauro dalla provincia di Perugia che credo che solleverà una questione morale, era un po' inevitabile. Buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Ma la domanda è questa: diciamo che con l'arrivo dei cellulari un pochino si è iniziata a perdere la privacy, nel senso dell'individualità della persona, perché siamo comunque in qualche modo sempre tracciati, sempre individuati. Allora mi chiedevo se questa tecnologia che sta spingendo in qualche modo diciamo il tracking, quindi il controllo e quindi l'individuazione momento per momento della persona sul territorio, possa generare una questione di carattere morale, tra virgolette, chiaramente non la questione morale politica di cui parliamo adesso, però il fatto di essere comunque in qualche modo sempre controllati o comunque sempre controllabili. Grazie. Insomma, il pericolo è quello del grande fratello, insomma, di un occhio che ci vede, anzi di un telefonino che ci ascolta e che manda le informazioni sui nostri spostamenti, in questo caso a qualcuno. Sì, è una assolutamente sì, questo è un grande problema, ed è per questo che noi non facciamo questo tipo di progetti. Cioè, questo è un grande problema che riguarda proprio la tecnologia di per sé. È un problema ancora più generale, se volete, un problema legato al fatto che col digitale oggi tutto può essere archiviato e tutto può essere può entrare a far parte di un database da cui può essere ritirato fuori. E questo prende la cosa più innocente del mondo, fare una fotografia. Io credo una fotografia prima del digitale, 10-20 anni fa, non rappresentava nessun problema di privacy, era qualcosa che finiva stampata e finiva in un cassetto. Oggi, perché dal momento che possiamo prendere milioni e milioni di fotografie, queste fotografie vanno su internet, le possiamo cercare su queste fotografie e recuperare le informazioni, è qualcosa che può iniziare a porre dei seri problemi di privacy. Pensate a quello che succede con la Google Car, con la macchinetta di Google, quando va in giro a prendere foto per la città. Proprio in Italia c'è stato quasi un morto che scappava che è stato investito perché scappava per non essere fotografato dalla macchinetta di Google. Non solo in Italia, ci sono stati problemi sulla privacy un po' in tutto il mondo, persone che hanno visto il marito in casa altrui, cioè è successo un po' di tutto con le foto di Google. Allora c'è la condizione è questa, cioè questo digitale ci permette di fare moltissime cose che non potevamo fare prima, ma ha un difetto, che noi lasciamo delle specie di impronte digitali che durano a lungo, quasi per sempre, probabilmente per sempre, e che sono facilmente archiviabili e searchable, cioè che possono essere recuperate. Ecco, lei ha detto, sì, scusi, lei ha detto prima, noi non lo facciamo questo, però chiaramente il sospetto è, voi non lo fate perché avete un'altra finalità, che è quella appunto di mappare i flussi del movimento, ma è quindi possibile il rischio Grande Fratello da un punto di vista tecnologico e alla luce di tutti i sensori che ci sono in giro, internet e telefonini, è qualche cosa di più di una suggestione? Io stavo finendo di dire, cioè una condizione nuova proprio una condizione nuova legata al digitale. Questa nuova condizione legata al digitale ha delle grandissime opportunità e anche dei seri rischi. Come dico, la cosa più innocente del mondo che prende una fotografia può diventare qualcosa, una minaccia per la privacy. Allora, come risolvere il problema? Beh, è qualcosa che proprio deve essere discusso in modo pubblico. Noi proprio nel nostro gruppo a ottobre, al 12-13 ottobre, organizzeremo un grande convegno internazionale con rappresentanti dell'amministrazione Obama, con alcuni membri di associazioni per la privacy di tutto il mondo, con membri dell'industria, proprio per discutere quello che abbiamo chiamato engaging data, cioè come utilizzare i dati, ed è uno dei temi oggi che dovremmo risolvere nei prossimi anni tutti insieme, insomma. Sì, Guido. Ma io ho una domanda invece per Beatrice Trussardi, e volevo rilanciare invece l'aspetto positivo di questi progetti, queste tecnologie, visto che quando si parla di Grande Fratello fa sempre un po' paura, soprattutto pensare appunto che abbiamo un telefonino in tasca che ci può tracciare, magari diventa subito un fattore di disturbo. Ma ecco, la domanda per Beatrice Trussardi, che è Young Global Leader, ma anche persona di cultura e che la cultura sostiene, è: non è un'occasione sulla quale l'Italia, che ha un così grande patrimonio storico, è un po' troppo timida, questa delle nuove tecnologie, intese come occasione ad ampio spettro per grandi progetti? Potremmo fare di più per magari progetti che coinvolgono il turismo, la nostra cultura, la fruibilità appunto delle nostre città? Assolutamente sì, forse avete anche accennato a quel progetto che si stava portando avanti a Firenze precedentemente. Forse non era collegata, ma Luca Tremolada ha parlato appunto del progetto della mappatura delle foto a Firenze. Sì, e la stessa cosa si può ovviamente, penso che questo tipo di tecnologia possa avere svariate applicazioni che possono essere più o meno, più che pericolose, possono più o meno spaventare, ma credo che sia proprio il vedere queste applicazioni tangibili che spaventi. In realtà siamo già tutti rintracciabili e siamo già tutti trovabili già da tempo. Adesso quello che fa Carlo Ratti con l'MIT, con il suo lab, portare avanti appunto queste applicazioni. Credo anche che per gli spazi culturali ce ne siano svariati di progetti. In Italia penso che ancora prima di pensare di applicare questi progetti si dovrebbe ripensare anche al concetto di contenitore culturale e come valorizzare il nostro patrimonio culturale e artistico. Siamo un po' indietro da questo punto di vista, quindi ancora prima di pensare a che tecnologia applicare dovremmo pensare anche al suo contenitore, se ne vogliamo uno. Quello che ad esempio facciamo noi con la Fondazione Trussardi è quello di dimostrare che nella città di Milano è già ce ne sono già moltissimi di spazi che possono essere dedicati ad ospitare la cultura e l'arte, quindi non c'è necessità di costruirne di nuovi. E poi si tratta di renderli più fruibili, comunicarli al meglio e eventualmente applicare anche questo tipo di tecnologie. In una parola, fare diventare più intelligenti le nostre città, insomma, come si diceva all'inizio. Ma invece io ho una domanda a questo punto per Carlo Ratti, perché la domanda che forse rimane irrisolta a questo punto è la ricaduta economica di questi dati. I suoi progetti sono bellissimi, sono quasi delle opere d'arte, vengono presentati sia ai convegni scientifici che alle biennali di architettura, ma se messi in comune questi dati di questa polvere elettronica potrebbero diventare, come dire, un substrato per iniziative imprenditoriali anche dal basso, per esempio per fare progetti turistici per piccoli imprenditori che vogliono fare qualcosa nella loro città, e in percorsi alternativi, iniziative? Ma assolutamente sì, anzi la cosa interessante è che soprattutto in Italia sono cose che possono essere fatte senza grandi ricerche di base dietro, senza grandi investimenti, quindi io penso che siano molte possibilità anche imprenditoriali. Per noi la cosa più interessante è la parte di ricerca sia poi quella che viene fatta per il Museo d'Arte Moderna di New York per far vedere una visione, sia quella che invece viene fatta per gli articoli scientifici, ma di sicuro al di là di questo ci sono poi proprio ricadute effettive per in un certo senso per ottimizzare quelli che sono i sistemi spaziali, che sia il traffico, che sia i flussi turistici, che sia la raccolta dei rifiuti o che sia qualsiasi altro aspetto dinamico della città. Professor Ratti, abbiamo un minuto. Qual è la reazione che ha riscontrato nel decisore pubblico, nella politica, nel momento in cui offrite una dotazione tecnologica che consente di capire appunto che cosa e dove vanno le persone? Molto, molto entusiasmante, molto positiva, questo sia con città italiane, come abbiamo lavorato adesso per diversi anni con Matteo Renzi, con Firenze. Adesso stiamo facendo un progetto molto grande con Copenaghen per il summit delle Nazioni Unite sul cambio climatico a dicembre, e quindi da sindaci un po' di città di tutto il mondo una reazione molto positiva e entusiasta quasi. Ma nessuno le ha detto no, non ci interessa, so io quello che vogliono i miei cittadini? Di solito sono i sindaci che vengono da noi, quindi quelli che vengono da noi non ci dicono, non vengono per dirci quello, però direi in realtà abbiamo un gruppo di città partner del nostro laboratorio e di grandi imprese e l'idea è proprio di capire come insieme si possa sviluppare, disegnare e progettare la città del futuro. La città del futuro sarà molto diversa da quella di adesso, non saranno soltanto in un certo senso atomi, saranno atomi e bit. Grazie professor Ratti, ringrazio anche il presidente Beatrice Trussardi. Nova Lab 24. Nova Lab 24. Dovendo pagare per le informazioni su internet, gli utenti preferiscono l'abbonamento al micropagamento. È quanto emerge da un sondaggio del sito Paid Content. Il responso sorprenderà i sostenitori del modello iTunes. In realtà, gli utenti che hanno risposto al questionario preferiscono sì l'abbonamento, ma non di lungo periodo. In altre parole, più che il singolo articolo, sono interessati a tutte le notizie di una singola giornata. Yahoo, sei tu. Suona così il senso della campagna marketing che il portale intende avviare per rilanciare il marchio. Secondo il Wall Street Journal, lo slogan It's You, cioè sei tu, punterà su nuove funzionalità di personalizzazione del sito. Sarah Palin, scomparsa dalle cronache politiche americane dopo la sconfitta elettorale, sta risorgendo grazie ad internet. Il sito politico.com scrive che l'ex candidata vicepresidente repubblicana su Facebook ha raggiunto la quota record di 850.000 amici. Seconda solo a Barack Obama, Palin, dopo le sue dimissioni da governatore dell'Alaska, ha evitato nuove apparizioni pubbliche. Facebook ha stretto una partnership con la società d'analisi Nielsen, volta a misurare l'efficacia della pubblicità sul suo sito. In base all'intesa, il social network comincerà a intervistare i suoi utenti in merito ad alcune inserzioni, come ad esempio i banner che promuovono l'uscita di un film. La società fornirà quindi i dati raccolti a Nielsen, che li analizzerà per poi fornirli ai pubblicitari. Mad Men, 13 Rock e Grey Garden hanno trionfato agli Emmy Award, gli Oscar della TV americana. Come atteso, la migliore serie drammatica è stata Mad Men, mentre nella categoria commedia il successo è andato a 13 Rock. Si chiama GeForce, Super Spie in Missione, il primo videogame interamente in tre dimensioni firmato Disney. La storia è quella dell'omonimo film di Jerry Bruckheimer. I protagonisti sono tre porcellini d'India, una talpa e una super mosca. Si gioca con gli occhialini rosso-blu, quelli dei primi film in tre dimensioni. Quelli dei primi tre film in tre dimensioni. Tra l'altro io non so, però se fossi un politico mi arriva Ratti e mi dice: guarda che io so già come devi giostrare il turismo. Io non lo so, però insomma non è che sono tanto contento, perché mi inchioda. Cioè io posso fare scelte sulla base di dati, di certezze, non ho possibilità di avere l'amico che mi consiglia. Boh. Beh certo, però in questo modo... Certo, il politico forse è il decisore pubblico, anzi non il politico, il decisore pubblico... Che è politico però, che è politico. Vabbè, è un politico, però è un decisore pubblico e si trova, come dire, diminuito, forse ha meno gradi di libertà, però ci guadagna in trasparenza, cioè vuol fare una cosa che magari a prima vista non è... accettata, non sembra tanto accettabile. Arriva il cittadino però che dice... monitora su internet cosa sta succedendo, scopre che tutti i giapponesi fanno il giro intorno. Dati alla mano, io scientificamente ti dimostro che nessuno va a vedere quel monumento, perché non ci vanno? Facciamo un intervento urbanistico, cambiamo qualche cosa. Secondo me può essere una grande spinta al cambiamento. Rimane certo quello che diceva uno dei nostri ascoltatori, la cosiddetta questione morale, tra virgolette. Cioè il problema dell'accettazione sociale di queste tecnologie. E sì, anche se però l'ascoltatore diceva che il problema è se ti tracciano personalmente, cioè se mi tracciano in gruppo, cioè se io sono una piccola lucina all'interno di centinaia di altre persone, di altre lucine, boh sì, chissà, non mi interessa. Ma credo che la cosa migliore è che questi dati siano in qualche modo a un livello molto di base, accessibili e pubblici a tutti, in modo che poi possano essere anche utilizzati, si diceva prima, per iniziative imprenditoriali, per fare delle interpolazioni, delle cose. In questo modo, come nel mondo del software, per esempio, dove c'è un open source, tutto è garantito, tutto è più sicuro in un certo senso. Non è open source, invece, il nostro indirizzo di posta elettronica, novalab24@radio24.it, e il Twitter che utilizziamo per pubblicizzare le nostre iniziative, i nostri indirizzi, articoli che leggiamo e cose che ci piacciono. Novalab24 è il Twitter, cioè twitter.com/novalab24. È tutto, ci sentiamo domani alle 4. Ciao.